amore mio, amore mio, come è cambiato tutto in noi. Cosa farò? Con quali occhi guarderò? Come si fa a camminare sul sentiero? Come si fa ad arrivare tutto intero? Come si fa a rotolare nel silenzio? Come si fa a respirare in questo incendio? Come si fa a risvegliare quel sorriso? Come si fa a volteggiare su nel vento? Come si fa a non cadere più insicuro? Come si fa a non odiare il mondo intero? Come si fa? Come si fa? Cosa dirò? Come vuoi tu?